Alice Berti torna a pubblicare un nuovo fumetto con Bao Publishing dal titolo Calypso e io sono qui per parlarne proprio con lei, con l'autrice. Ciao Alice, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, grazie mille per l'invito. Allora Alice, nelle primissime pagine del fumetto riporti delle scene di grandi commedie d'amore cult come Notting Hill e Dirty Dancing, dicendo però che quella che verrà raccontata non sarà una classica storia d'amore. Quindi che cos'è Calypso? Ti va di raccontarci insomma un po' di trama? Calypso è tante cose, ma tante. Una cosa che a me piace fare con i miei libri è mettere più livelli di lettura possibili, in modo che ogni lettore poi possa leggere la storia nella maniera in cui si sente più a suo agio e come preferisce. Quindi in realtà Calypso non è una storia d'amore e si scoprirà leggendo il perché, soprattutto sul finale, secondo me viene spiegato molto bene. È una storia che principalmente sembra una spy story, quindi una storia tipo alla James Bond 007, di spie e intrighi di questo tipo, però è soltanto l'inizio, perché in realtà poi si va a scavare nella profondità dell'animo umano, nella storia e nella psicologia soprattutto della protagonista Calypso. I vari capitoli hanno anche dei titoli di canzoni molto note, conosciute, questa è un'altra particolarità del fumetto, quindi ti volevo chiedere come si relaziona la musica con appunto la storia e che ruolo ha anche la musica nel tuo processo creativo. L'ho fatto anche con Neon Doodle, che è il mio primo libro con Bao, è stato pubblicato nel 2020 e anche lì avevo scelto come titoli per i capitoli tutti i titoli di canzoni, in quel caso erano canzoni inglesi essendo ambientato in Inghilterra, quindi con Calypso ho deciso di riproporre questo stesso processo ma con canzoni italiane essendo ambientato a Roma. In più ogni canzone rappresenta un po' anche quello che è l'animo di quel capitolo, no? Quindi ho cercato di trovare delle canzoni che avessero sia un senso a livello magari di lyrics, quindi di delle parole, ma anche per la melodia, che magari potesse un po' essere simile all'atmosfera di quel capitolo là. E in realtà poi la musica è un'ispirazione costante quando lavoro, ma anche appunto Calypso, il titolo stesso del libro, è la canzone, quella di Mahmoud Dardas, che è uscita qualche anno fa, perché la musica alla fine mi ispira proprio le atmosfere, no? Quindi magari non so neanche leggere le parole precisamente, ma proprio la melodia spesso mi ispira delle immagini, quindi diciamo che lavorano a braccetto le due cose proprio. Tornando appunto sull'atmosfera del fumetto, l'hai citata anche tu prima, Roma, sullo sfondo c'è appunto la città di Roma, che rapporto hai con questa città, Alice? Io ho scelto Roma perché è una città che, vabbè, sono stata moltissime volte a Roma, perché poi ho tantissime amici lì, quindi è una città che comunque conosco abbastanza bene. E in realtà ho scelto Roma perché mi sembrava, volevo proprio creare questa atmosfera un po' alla Dolce Vita, del classico stereotipo italiano, diciamo. Quindi proprio quell'atmosfera romantica, che un po' anche si contrappone a quella che è la storia, perché poi non è veramente una storia d'amore, come dicevamo prima. Cioè, mi sembrava la città adatta, diciamo, anche come tonalità, diciamo, per il colore, cose così, perché è una città molto calda, molto accogliente in un certo senso, nell'immaginario comune, ovviamente. Quindi, non lo so, mi sembrava il posto perfetto, ho deciso di usare quella. Mettendo quindi tutto insieme tra la città di Roma, appunto, e la musica, ti volevo chiedere da dove hai preso ispirazione per scrivere la storia, se proprio da queste cose o anche se hai aggiunto altro. Allora, l'idea in realtà, cioè l'ispirazione musicale eccetera, mi è nata con questa storia in particolare, in realtà dopo aver pensato alla storia completa. È stato un mix di suggestioni che ho messo insieme per creare poi quella che è la storia che leggiamo finita nel libro. E ero partita in realtà con l'idea di voler raccontare parti della comunità LGBT+, che non vengono raccontate spesso, come il poliamore o la sessualità, che però alla fine non ricoprono un ruolo così importante nella storia, perché ho finito per raccontare altre cose, che secondo me la storia principale poi è quella, la psicologia proprio di Calypso, il suo rapportarsi col mondo, il suo trovare se stessa, capire chi è, e soprattutto quello che poi è il suo problema di, diciamo, dire depressione, ansia, perché poi è questo secondo me che parla più di tutto la storia. Però all'inizio ero partita con appunto un'altra cosa che in realtà c'è comunque nella storia, ma per esempio non è più fondamentale come l'avevo pensato all'inizio. Perfetto Alice, io ti ringrazio innanzitutto per averci raccontato da più vicino questo nuovo fumetto, ricordo ancora che il titolo è Calypso, che è già uscito per Bao Publishing, e niente, ti ringrazio ancora. Grazie a te per l'invito, sono stata super felice di potervi raccontare il libro.